Radio Cerrano presenta Sportivamente Parlando, un programma ideato e condotto in studio da Federico Di Fabio. Buon pomeriggio a tutti i nostri spettatori e benvenuti alla prima puntata di Sportivamente Parlando. Siamo in diretta sia su Facebook, sulla pagina Radio Cerrano Web, che sul sito radiocerrano.net. Vi spieghiamo in breve qual è questo nuovo format che si chiama Sportivamente Parlando. Tratteremo del calcio giocato principalmente ed esclusivamente delle società sportive che fanno parte delle terre del Cerrano, appunto perché la radio e Radio Cerrano Web vogliamo dare visibilità alle squadre del nostro territorio. Ringrazio il nostro direttore Carlo Micheli che ci ha dato la possibilità di fare questo, di creare, di comunque di condurre questo format, e voglio ringraziare i nostri ospiti qui in studio: Gian Piero Reitano, mister dell'Atria Calcio. Buonasera, grazie a voi. E Nicolas Novello, diciamo fantasista dell'Atria Calcio. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, io vorrei partire, diciamo, dalle categorie un po' più ambite. Vorrei partire dal Pineto che sta facendo un gran campionato in Serie D, diciamo vicino, è stato molto vicino alla zona playoff nelle ultime partite, però poi si è persa con il passare del tempo e diciamo che adesso questo obiettivo è ampiamente precluso. Però possiamo dire che tutto sommato la stagione sta andando sicuramente nel migliore modo, comunque considerando che la squadra è molto giovane. Un giovane in particolare è un nostro concittadino, è Riccardo Della Quercia. Si sta riscoprendo, mister, come un talento, è figlio di Eraldo Della Quercia, che è un suo ex grandissimo amico, è scomparso qualche anno fa. Cosa ci può dire in merito? Perché sono super felice per Riccardo, soprattutto perché siamo, non solo perché gioca in Serie D con il Pineto Calcio, ma è notizia proprio delle ultime ore, degli ultimi giorni, che ha avuto una convocazione nella rappresentativa nazionale della Serie D e quindi giocherà il torneo di Viareggio, che è una vetrina più importante per i giovani. E quindi per me è una felicità immensa vedere Riccardo poter calcare quei campi e calcare quei palcoscenici, soprattutto perché mi lega un affetto, un'amicizia molto particolare con il papà, che purtroppo non c'è più, che mi ha allenato per 9 anni, ma oltre che un allenatore era un fratello. E Riccardo l'ho visto crescere in quanto si allenava con noi, lui ha il calcio nel sangue sin da piccolo e già si vedeva lì che aveva delle qualità che lo potevano portare in categorie molto superiori rispetto a quello dove si allenava con noi in prima categoria. Ecco, spero che Riccardo però mantenga la maturità che sta dimostrando nonostante la giovane età e possa scalare ulteriori tappe importanti, perché lui ne ha le possibilità e soprattutto ha la testa per poterlo fare. Hai detto che l'hai visto crescere, ma magari vorrei vederlo più vicino, crescere calcisticamente, lo vorrei allenare un giorno. Me lo auguro più per me che per lui, vuol dire che ho fatto carriera pure io. No, spero che Riccardo faccia il suo cammino, deve fare il suo cammino. Io sono felice per lui, credo che possa diventare un giocatore professionista, però deve volare basso, lui lo sa, io ci parlo qualche volta, ma lui ha la testa giusta, deve fare a piccoli passi, adesso sta facendo tutto bene e quindi la speranza, anche per in onore del padre che stravedeva per lui, possa dargli questa soddisfazione, questa grande soddisfazione. Io adesso proseguirei con la lettura dei risultati della Serie D con la relativa classifica. Ricordiamo che il Pineto, l'unica squadra del girone F di Serie D che fa parte del nostro comprensorio del Cerrano, non ha giocato perché la partita con il Fabriano Cerreto è stata rinviata a mercoledì. Allora proseguo con la lettura dei risultati. Il derby San Nicolo Teramo, L'Aquila 3-4 a favore dell'Aquila. Francavilla San Marino 1-1, Monticelli Vispesaro 1-0, Olimpia Agnonese Matelica 1-0, San Giustese Iesina Calcio 2-1, Nerostellati Vastese Calcio, un altro derby abruzzese 0-2. La situazione dei Nerostellati è sempre più compromessa, oramai diciamo 8 punti, praticamente spacciata. Leggo la classifica: il Matelica a 60 punti è, diciamo, molto stretta al primo posto, anche per l'organico molto, molto forte, mister. Il Vispesa lo segue a 56, poi c'è un divario enorme con l'Avezzano, terzo classificato, a quota 43 insieme alla Vastese, e Castelfidardo a 42, l'Aquila a 41, proprio sotto la soglia dei playoff, che però in questo caso probabilmente non si giocheranno visto il divario con il Vispesaro. Francavilla 39 insieme al San Marino, San Giustese 38, Pineto 37, Campobasso 36, San Nicolò 28, Olimpia Nionese 27, Recanatese e Jesina 25, Monticelli 21, Fabriano Cerreto 18 e Nerostellati 8. Visto che i Nerostellati, l'abbiamo già detto, sono abbastanza spacciati. Purtroppo vediamo un abruzzese che non è riuscito a tenere l'ambizione che si prospettava all'inizio. Non è semplice gestire dei campionati da semiprofessionisti. I Nerostellati avevano raggiunto un risultato incredibile l'anno scorso per l'approdo in Serie D, poi la realtà dice che per stare lì occorre un'organizzazione, occorre soprattutto una disponibilità economica che ti permettano di programmare, di rimanerci, se non di avere ambizioni superiori. Purtroppo i Nerostellati hanno avuto comunque una ricompensa grandissima l'anno scorso, e l'onore di giocare questa categoria, credo che quest'anno debbano deporre le armi e ritornare in eccellenza. Purtroppo, dico, non soltanto perché un abruzzese quasi sicuramente retrocederà, ma poi questo a catena avrà degli effetti anche sui campionati che giochiamo noi, in quanto ci saranno meno posti nel caso per eventuali promozioni, o per le squadre che purtroppo devono lottare per la retrocessione, devono giocare più partite, ecco, perché se retrocederanno più squadre nelle varie categorie ci sarà meno posto. Quindi voglio ricordare che i Nerostellati hanno conquistato due promozioni di fila, dalla promozione all'eccellenza, all'eccellenza in Serie D, quasi sempre quasi con gli stessi uomini. Sì. Dalla promozione, anzi dalla prima categoria, ha tenuto lo stesso organico, sono cresciuti insieme questi ragazzi, e proprio dalla promozione vorrei ripartire dal nostro, diciamo, il nostro cammino. Mi permetto di dirti che io condivido in pieno la linea dei Nerostellati, perché hanno fatto benissimo. Più un gruppo si consolida, più riesce poi a portare risultati. Ci vuole coraggio da parte delle società, puntare su questo tipo di linea. Loro ce l'hanno avuta, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti, almeno fino all'anno scorso. Allora, quindi proseguirei con la promozione, magari è un qualcosa che vi compete un po' di più, visto che è l'ambizione principale dell'Adria Calcio. Intanto, prima di leggere i risultati, vorrei parlare con Nico, che la promozione l'ha calcata qualche anno fa in Calabria. Tu sei argentino, ma come dici tu, hai il sangue calabrese. Sì, è vero, è un campionato, non so se è tanto diverso che la prima categoria, ma è sempre bello affrontare un campionato magari con qualche visibilità di più, no? E io credo e spero che questo anno questa città, Atri, i ragazzi, questo gruppo, penso che meriterebbe un posto in promozione per difendere, come dire, la storia di questa squadra, di questa città. Ci vuoi dire qual è la differenza? Non so, tu magari hai visto soltanto la prima categoria qui in Abruzzo, però hai calcato i campi, appunto, come ho detto, in Calabria di promozione. Se hai visto qualche partita di promozione abruzzese, puoi dirci qual è la differenza di livello, ma anche atleticamente, tra i due campionati? Sì, secondo me ci sta un po' di differenza, nel senso che magari la promozione lì, già il fatto che fanno 4-5 allenamenti, dipende le squadre più organizzate, fa la differenza, perché trovi squadre più organizzate, e quindi il livello magari si alza un po' di più. È un campionato magari più di sangue, più tosto, dove si corre, si lotta, dove la cattiveria fa veramente la differenza. Per quanto riguarda la prima, magari già a livello di prima di Abruzzo è molto, molto più alto. In Calabria diciamo che la prima non è considerata tantissimo. Già dalla, diciamo, promozione, che partono direttamente dalla promozione. La promozione è veramente forte, è la prima, soltanto le squadre a vincere magari sono organizzate, le altre... E dopo qual è l'impatto che magari una prima classificata della prima categoria può avere con la promozione? Perché tu ci hai detto che il divario è ampissimo. E qual è l'impatto che può avere una squadra ad affrontare un campionato molto più difficile? E l'impatto come... Non ho capito bene la parola. Come sarebbe? L'impatto... Tipo? Non so, magari una squadra che è forte in prima categoria deve affrontare un campionato di promozione che è molto più difficile. Come si può comportare? Ah, sì, sì, va bene. La cosa più importante, secondo me, prima di tutto, è la testa e il gruppo, no? Se il gruppo diventa forte, diventa unito, può affrontare... Questa rosa può affrontare tranquillamente la promozione, sempre in nonostante la testa deve essere a posto, deve essere convinto di quello che si fa. In settimana si deve lavorare bene per arrivare alla domenica e fare quello che si prova in settimana, se no è difficile. Mister, gli stiamo estorcendo qualche parola che magari ha da dire alla sua squadra. Lui ha la sua visione, giustamente. Giusto quello che dice. Secondo me quello, la settimana rispecchia quello di la domenica. Difficilmente se tu fai una settimana fatta bene... su tutti i punti di vista, atletico, tattico, tutto, e la domenica magari arrivi che sbagli, ma sbagli poco. E alla fine, secondo me, la differenza, la testa fa tanto la differenza. Parleremo del momento nero dell'Adria, che sta affrontando appunto un momento un po' buio, senza vittorie, ad eccezione della penultima giornata fa. Con il Vice Ratina, che è la penultima forza di campionato. Torneremo sul campionato di prima categoria Gironè. Adesso parliamo di promozione. Abbiamo da parlare del Mutignano e del Fontanelle, appunto, che sono delle squadre che fanno parte del nostro comprensorio del Cerrano. Il Fontanelle un po' meglio, anche se nelle ultime partite ha avuto qualche cenno di calata, possiamo dire così, mentre il Mutignano si sta riprendendo, ma la classifica è sempre abbastanza difficile. Sì, il Fontanelle ha iniziato veramente forte il campionato, se non sbaglio nelle prime sette. Sì, prime dieci, nessuna sconfitta, sette vittorie. Penso le prime sette, furono sette vittorie, penso, quindi 21 punti. Ma Fontanelle è una squadra di categoria, ormai è diventata, ma di categoria alto livello della promozione, quindi riescono sempre a imbastire una rosa, una squadra che si comporta benissimo. Peccato, oltre che è un allenatore molto esperto, Bizzarri, peccato che non riesca a trovare quella continuità, che non è semplice, perché qui si gioca per andare in eccellenza e Fontanelle comunque rimane sempre una frazione di Adri, e per me già è tantissimo il lavoro che hanno fatto e che fanno, perché stanno ai vertici da anni, comunque campionati di vertici di promozione o comunque di tranquilli, quindi il mio applauso a loro, visto che sono un atriano. Sì, anche perché c'è la Virtus Teramo, che è una vera potenza sia economicamente che come squadra, quindi tecnicamente ovviamente non si può fare nulla per contrastare, anche se la prima parte di campionato ci aveva fatto sperare, possiamo dire così, magari un epilogo diverso da quello che si prospettava, però poi la forza magari della Virtus Teramo, così come quella del Ponte Romano, è venuta fuori. Quindi, e le Aquilane pure un po', sì, sono le che sono sempre vaganti. Campi ostici quelli giù. Molto. Nella Marsica sono molto. Sempre, Marsica e L'Aquila sono sempre, molto, ma sempre molto, ostici, quindi... Molto. Adesso proseguirei con la lettura delle formazioni, oramai sono abituato così, dei risultati e poi delle classifiche. Allora, Gironè A di promozione, l'Alba Montarone Nova Sant'Egidiese 0-0, Celano Rosetana 2-2, Colonia Ponte Romano giocata sabato 1-2, Monrodoro Piano della Lente 2-1, Mociano Notaresco 2-1, Pucetta Tossicia 1-2, visto tutti 1-2 e 2-1, molto equilibrato questo campionato. Sì. San Gregorio Fontanelle 3-3, ci ha parlato appunto di campi ostici. Il Terra Aquilana, San Gregorio è uno di queste. Santo Vero Mutignano contro Salvezza 1-1, Virtus Teramo Luco 2-0. Anche questo era uno scontro diciamo di vertice, però appunto la forza del Virtus Teramo è ineguagliabile. Allora continuo con la classifica. Virtus Teramo comanda con 60, Ponte Romano 55 ma con una partita in meno, quindi può riaprire il campionato. Lugo 51, San Gregorio 47, Fontanelle e Pucetta 46, Rosetana 43, Mociano 41, Colonia 40, 39 Piano della Lente, Celano 38, Nuova Sant'Egese 34. Adesso arriviamo alle zone calde: Morrodoro 32, Sant'Omero in zona playout 28, Mutignano 25, Tossicia con la partita a recuperare 22 punti, che potrebbe appunto salire, salire a pari con il Mutignano, Albo Montaurei 20 e Notaresco 14, appunto Mutignano è quart'ultima, il Tossicia è vicinissima, sì, ma secondo lei può fare il salto di qualità, può avere il salto di qualità una rosa che, se andiamo ad analizzare bene i componenti, sicuramente non è una rosa da queste posizioni. Parli del Mutignano, sì. Del Mutignano, società a cui mi lega un trascorso di molti anni, quindi ho molto affetto verso la società del Mutignano. Mutignano ha pagato un distacco da un allenatore molto legato all'ambiente a inizio stagione, quindi è uno shock per quell'ambiente comunque piccolino, come, sì, come Fontanelle, quindi anche minore i Fontanelle. Danilo Macera era l'allenatore, la guida per molti anni è stato del Mutignano, nonché ha contribuito, se non sbaglio, 6 anni, che comunque sono stati proprio, è stato l'inizio della carriera di allenatore di Macera. Si crea un rapporto di simbiosi tra l'ambiente, l'allenatore, ma anche i giocatori. Poi lui è stato molto bravo a far crescere moltissimi giovani, tra cui anche i nostri concittadini, diciamo. Il Mutignano ha cambiato un po' pelle, ha dovuto cambiare l'allenatore, perché spesse volte quando le cose vanno male l'allenatore è l'unico e il primo a pagare. Hanno dovuto cambiare per dare una scossa, hanno preso un altro ex mio compagno di squadra per un anno ad Atri, che è Mirko Mazzaratti, che è un altro allenatore molto preparato, molto meticoloso, che sta provando a risollevare le sorti, visto che l'inizio stagione Mutignano è stato abbastanza complicato. Non so se questo però possa bastare per evitare i playout. Beh, adesso la classifica è molto corta, quindi diciamo che i playout evitarli, i punti sono 7 dal Morrodoro, quindi insomma, diciamo che è abbastanza difficile. Però possiamo dire, come hai detto tu, ha cambiato pelle a dicembre, nel mercato di dicembre molti sono andati via appunto perché erano in simbiosi con l'allenatore Macera, tra cui anche i nostri concittadini che sono andati a calcio Atri, Lolli e Cantoro, che è stato il mattatore del derby di Atri, di cui parleremo a breve. Quindi diciamo che questo cambio di pelle ha potuto dare una scossa al Mutignano, ma secondo me l'impatto è sempre stato minore delle aspettative, anche perché attaccanti come Trento, come Assogna, sono sicuramente di categoria molto superiore rispetto alla promozione, anche se l'età comincia a salire piano piano. Come per tutti. Però ovviamente però parliamo di calciatori esperti che possono e hanno tutta la forza per poter aiutare la squadra a risollevarsi. Questo è vero, però ecco, come hai detto e come prima stavo dicendo, il distacco da quel tipo di allenatore che era così legato all'ambiente, ci vuole un po' di tempo per poter assimilare questo distacco e abituarsi a un altro allenatore. Adesso passiamo al girone B, c'è una realtà sempre piccolina, qui parliamo sempre molto di piccole realtà che però ci danno tantissime soddisfazioni, più di noi. Parliamo del Real Tre Ciminiere. Diciamo, questa forza, che può essere considerata così, è quinta classificata nonostante un'economia non tanto rosea per la squadra, comunque è una frazione di 250 anime, diciamo mezzi finanziari sono difficili da reperire, eppure nonostante un ridotto capitale sono riusciti a ottenere risultati. Voi l'anno scorso l'avete vissuto in primo piano, è stata la vera corazzata del girone E di prima categoria, ha vinto il campionato, lo possiamo dire forse a febbraio, a marzo, quando l'Elicese ha avuto un crollo vertiginoso, e lì il Real Tre Ciminiere ha avuto una crescita esponenziale e si è riuscito a portare in prima posizione e distaccare addirittura di 12 punti le avversarie che le stavano dietro. Questo Tre Ciminiere possiamo definire la Cenerentola nel cambio di promozione, insieme al Piazzano e al Passo Cordone sono una delle realtà più piccole d'Italia che stanno facendo bene, Ma secondo te, mister, come è andata avanti? Come forse la passione che fa andare avanti questa realtà? No, l'ha riconosciuto più altre ciminiere, scusa, rispetto al Piazzano, perché Piazzano e di Atessa non hanno più squadre ad Atessa, quindi il Piazzano ha rimpiazzato la vecchia Atessa che sì, giocava quando... Anche se c'è la Val di Sangro che adesso... C'è la Val di Sangro, sì sì, però prima c'era l'Atessa, mi ricordo, quando giocavo io in Eccellenza. Adesso Piazzano credo che abbia anche molte risorse economiche. Sì, l'anno scorso mi dicevano è un po' industriale, quindi sì, magari molti investitori sono... Il Tre Ciminiere invece deve lottare come tutte le altre società di Atri, visto che ne siamo tantissime, con una maggior difficoltà a reperire fondi. Loro devono fare la promozione, sono bravi, sono bravissimi, anzi noi li dobbiamo prendere ad esempio, perché è una piccola realtà, però hanno grande passione, soprattutto sono guidati da un allenatore molto esperto che conosce bene il mago di Marzio. Marzio, che conosce bene il calcio in generale, ma conosce benissimo queste categorie, soprattutto il gruppo, la forza secondo me è il gruppo, perché Di Marzio comunque è un allenatore che crea gruppo, sì, e magari i risultati questo lo sì, evidenziano. Ed è un altro che cambia poco nelle squadre, ovviamente quest'anno ha dovuto cambiare qualcosina perché affrontava una categoria superiore. Però anche lui è molto attento al gruppo, molto attento al gruppo che porta avanti nei vari anni. Ha raggiunto tantissimi, tantissimi risultati, ma non solamente la promozione, ha vinto la Coppa Abruzzo, è andato in finale penso due volte purtroppo. Sì, ha perso due volte la con finale. Esiti e poi... negativi, una scippata mi ricordo a Pescara, col San Marco credo, sì, di due anni fa proprio fu scippata. Ha fatto un lavoro egregio, non mi stupisce che stia facendo questo campionato, perché poi la squadra del Tre Ciminiere è una squadra abbastanza costruita bene, ecco, ovviamente sta facendo un lavoro sensazionale anche quest'anno Alfredo e la società, però riesce sempre a trovare i tasselli giusti e questo gli va riconosciuto, e soprattutto si affida sempre a giocatori pronti, e i risultati sono questi. Forse non pronti. Riuscirà a arrivare ai playoff, non so perché c'è il divario di 12 punti, al momento di 11 punti, però lotterà fino alla fine conoscendo. Sì, anche perché c'è lo scontro diretto con la Val di Sangro proprio nelle ultime giornate in casa, quindi e forse al Piccirilli, paga che forse gli manca qualcosina in attacco per quello che io sì, anche possa perché sapere. Questo dell'attacco è tutto sui piedi di Marcone, che di Marcone che è molto bravo, però forse gli manca una capacità ancora realizzativa sì, continua. Sta traendo il massimo avendo ripescato Sorgentone, ne sta traendo il massimo, ha perso Balmus però sì, ecco, quindi ricordiamo deve... capocannoniere l'anno scorso il girone D di prima categoria sì, con quasi 30 realizzazioni sì, si volendo un gran giocatore. Però mister, volevo parlare, non so se avete un buon rapporto voi due con Capitan Brecciarolla del Tre Ciminiere, ex compagno di squadra. Lui diciamo che è l'anima di questa squadra, certo, perché lui certo, mette in campo tutto quello che ha, ricordiamo della seconda categoria che in squadra fa tutta la scalata con il Real Tre Ciminiere fino ad arrivare alla promozione. Questa stagione sta dimostrando di essere pronto anche per questa categoria, avendo realizzato più di 4 realizzazioni in campionato e anche qualcuno in Coppa Italia se non sbaglio. Coppa Abruzzo, sezione Coppa Italia, sezione Abruzzo. Sì, forse Ezio conoscendolo è perché ha un carattere un po' schivo, certe volte un po' modesto pure, quindi non è mai sotto i riflettori. È un leader silenzioso. È un leader silenzioso, così. Sì, però io l'ho avuto come compagno di squadra quando lui era giustamente piccolino, già si vedevano delle buone qualità sia tecnico che tattiche a Pineto, ma ha giocato ad Atri, ha giocato in varie piazze, quindi è un giocatore esperto, soprattutto a lui gli va riconosciuto il merito, ecco, al Tre Ciminiere, ma a lui di un legame, quasi un amore che lo ha legato a questa squadra, che poi non è la squadra della sua città. Ecco, Ezio è un esempio da seguire in queste categorie per molti giocatori, ma anche per gli allenatori o altro, e che le società dovrebbero prendere, sono persone che fanno bene alle squadre. Ci ho parlato di animo prima, Nico, diciamo che l'animo del Tre Ciminiere l'hai vissuto anche tu, appunto come ho detto prima, sulla tua pelle l'anno scorso, perché è stata la corazzata del vostro girone. Secondo te qual è il vero valore aggiunto di quella squadra, sia dell'anno scorso, non so se quest'anno hai avuto il piacere di seguire qualcosa sulla, appunto sul Tre Ciminiere, ma secondo te l'anno scorso qual è stato il punto di forza e perché... Cosa hanno avuto in più delle altre squadre come voi, ad esempio l'Elicese e tutte le squadre che sono arrivate in alto? cosa ha avuto quindi più di voi? Sì, una realtà anche se molto più piccola come il Treciminiere. Secondo me anche, vabbè, anche la forza del gruppo ovviamente porta avanti tanti risultati, ma al di là di quello è stato anche l'esperienza ovviamente dall'allenatore, ma anche dai giocatori. Secondo me avevano tanti giocatori esperti e sapevano cosa dovevano fare in campo. Hanno capito subito, diciamo, tutto l'anno quando dovevano spingere di più, quando di meno. Hanno letto bene il campionato, diciamo. Quando l'Elicese, come dicevi tu prima, si è fermato poco, loro non hanno fatto nessun passo falso, diciamo, e lì hanno fatto la differenza. Ci hanno creduto sicuramente tantissimo, al di là, dico, del gruppo, no? C'è stato anche che aveva tanti giocatori di esperienza e ha fatto anche quella la differenza. Sì, me. Sicuramente, anche perché mister, non mi vorrei sbagliare, l'anno scorso in quasi tutte le partite è schierato 7 fuori quota, non vorrei sbagliarmi, sì. Se mi confermi. Sì, sì, donna, te lo confermo. Molti, anche nel derby d'andata quest'anno, un'intervista che mi ha rilasciato per abruzzogol.net, hai rimarcato il fatto che erano 7 i fuori quota anche in quella partita, quindi sì. Una squadra molto giovane. Treciminiere è più esperta e forse è quella la chiave dei risultati. Possiamo dire, mister, l'anno scorso ha avuto un vero mattatore, nonostante lui non è mai stato una prima punta. Nico Novello l'anno scorso è arrivato, hai superato i 20 gol. 22, sì. 22. Quindi hai ritrovato un mattatore in lui la scorsa stagione. Sì, vabbè, ma Nico ha tutte le caratteristiche per poter far gol, anche se nasce come una mezza punta, un trequartista, ha fatto la mezzala, ma sai, quando un giocatore ha tutte le qualità al posto giusto, è forte proprio perché può interpretare vari ruoli in mezzo al campo. Quindi quando è venuto ad Atri, ovviamente, dove avevamo una carenza sotto il profilo offensivo, lui si è messo la squadra sopra le spalle da un punto di vista sempre degli attaccanti, dico offensivamente, nella squadra, e ha dimostrato le sue qualità tecniche ma anche atletiche, di forza, che gli permettono in queste categorie, almeno perché lui sta giocando qua adesso, di comunque di far gol ed è con una certa continuità. E quindi ben per noi che lo abbiamo pescato 2 anni e mezzo fa. Adesso però lui lo sa, per lui è più dura. Lui è più dura perché lo conoscono, quindi conoscono le sue caratteristiche, conoscono come gioca lui, come gioca la squadra. Lui quindi deve diventare sempre più forte, nel senso che deve rinnovarsi, deve cambiare anche modo di giocare, perché altrimenti per un attaccante è sempre più dura far gol se non riesce a cambiare qualcosina, e questo è il suo compito adesso. Sì, due anni e mezzo fa, come ben dicevi tu mister, hai accettato la proposta dell'Atria. Volevi tornare in Italia perché eri in Argentina in quel momento. Cosa ti ha spinto soprattutto ad accettare 2 anni e mezzo fa, ma anche ad accettare il rinnovo del contratto quest'estate, nonostante, lo possiamo dire, le offerte che avevi del Chieti, altre offerte anche in eccellenza in promozione, nonostante tutto hai deciso di rimanere a Atri? Questo ti fa orgoglio, perché appunto vuoi dare continuità a questo progetto. Ma adesso ti chiediamo il motivo, cosa ti ha spinto, in più magari ti ha spinto il mister, ti ha spinto la società in sé, cosa ti ha spinto a rimanere qui ad Atri? A rimanere mi ha spinto, guarda, io quando sono stato contattato, diciamo, per vincere il campionato di seconda con il presidente Carmine, mi è stato detto, no, che loro volevano arrivare in promozione. All'epoca facevano loro la seconda, no? Erano primi in classifica. Quindi se io do una parola, diciamo, mi piace portarlo a termine, no? L'anno scorso per poco non siamo riusciti a arrivare a questa promozione. Sì, ricordiamo il sogno infranto, sì. Nonostante un pareggio, un buon pareggio. Nonostante un pareggio, sì, rimane un sapore amaro, perché sapevamo dentro di noi che avevamo tutte le possibilità di vincere almeno quella partita per andare in finalissima e giocarci tutto. E quindi è stato, nonostante la grande corsa che abbiamo fatto l'anno scorso è stata alla fine, diciamo, una piccola delusione da parte da tutti, no? E quindi niente, anche uno come quando prende questo come lavoro, no? Che viene da altre parti del mondo a giocare, a farsi come un piccolo lavoro, a cercare di crescere nel possibile, perché comunque non è che ho l'età di 16-17 anni che posso aspirare ad arrivare in alto, ma cerco di fare il meglio prima per la squadra che gioco e poi se arrivano le richieste provare almeno a salire o avere la possibilità che ho di approfittarla al massimo. Promesso, forse questo è stata una dichiarazione d'amore da parte di Novello. Ha detto che vuole arrivare in promozione con questa squadra, magari la consolazione nel caso questo obiettivo non dovrebbe andare in porto è che l'anno prossimo, se mantiene la parola, avrà ancora Novello in squadra. Non lo so. Nico fa tanti sacrifici pure per stare qui, ecco, dobbiamo pure considerare questo, anche se è abituato da anni a giocare in Italia. È ovvio che abbia un'aspirazione, lui la deve avere. Noi eravamo felicissimi quest'anno quando abbiamo, lui lo sa, quando abbiamo saputo che stava approdando al Chieti, che è una società storica. Allora lui, quando ci sentivamo, pure se stava in Argentina, dicevamo tutti che eravamo orgogliosi, perché comunque noi eravamo stati un trampolino di lancio. Poi purtroppo per un calciatore ci vuole anche molta fortuna certe volte, quindi che l'allenatore lo veda bene, ci sono allenatori che non lo vedono bene, lui non ha avuto questa fortuna inizio anno e quindi c'è stata la volontà di entrambi di continuare per il terzo anno, diciamo secondo anno e mezzo con lui. Credo, anche se posso parlare per lui che lo conosco bene, che lui comunque ci sia, stia bene qui in Atri, perché l'ambiente lo ha accolto bene, lo ha fatto sentire uno di famiglia. Io dico che è più atriano lui che io in questo momento, quindi è stato ben integrato, si è ben integrato, quindi lui qui sta bene. Ovviamente però c'è un'aspirazione calcistica in lui, forse se Atri riuscisse ad approdare in promozione ci potrebbero essere, se c'è volontà della società e sua, qualche possibilità per poterlo rivedere qui, conoscendolo, se non ce la facessimo a raggiungere quell'obiettivo, credo che lui voglia provare a non radicarsi in prima categoria, ma a giocare, provare altre carte, che forse anche merita. Ecco, questo è chiaro, penso, giusto Nico? Sbagliato? No, è giusto, giustissimo. Alla fine ho fatto, è così, una scelta di cuore. Il primo anno, non conoscendo nessuno, la mia scelta è stata, se può dire, perché tante persone mi hanno detto che mi conoscevano in Calabria, in Sicilia, mi hanno detto, ma tu in seconda categoria vai a giocare. E io... Ti sentivi un pesce fuor d'acqua oppure eri... Non lo so, è stata una sensazione strana, ma sono arrivato convinto che dovevo allenarmi anche di più di quello che facevo prima, perché sicuramente no, non sarebbe stato facile scendere categoria. A volte qualcuno sottovaluta la categoria, ma non è così. Mi è capitato quando sono venuto in Argentina in eccellenza, quando in eccellenza sono in promozione, non è mai facile giocare, deve dare sempre il massimo. Quindi sono arrivato... In Italia ho cercato sempre di fare il campionato a vincere e non l'ho mai potuto vincere, quindi era una cosa dentro di me che diceva io voglio vincere, mi piace vincere, voglio vincere un campionato. È stata questa possibilità che l'Atri era in seconda categoria, primi, e quindi sono arrivato in gennaio a cercare di dare una mano e finalmente vincere un campionato, avere la soddisfazione di vincere un campionato al di là della categoria, perché alla fine è sempre difficile vincere. La pregherei la regia di mandare il primo stacco pubblicitario, possiamo dirlo così, oppure di musica. Snowstorm and all I had was my underwear on to keep me warm and to top the night off, had to break in my place because my keys were in my pants back on Sheila's bookcase. I was done sneezing and coughing. I hope this doesn't happen too often, but nevertheless, don't mean to bust your bubble. But girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhymes and get the hell away. I don't know, man. I don't think they're really with it, man. I think you should give them another example. All right, give me a scratch. It's making funky right here. I got a ring on my phone, May 5th last year. It was my girlfriend, Betty. I said, hello, dear. I was just about to call you. I got a couple tickets to the Run DMC concert. I'm ready. It's 6 o'clock now. At 8, will you be ready? Yeah. All right, fine. See you then, Betty. I combed my hair, washed and brushed my teeth. Got funky, fresh dressed, and Molly Cox for a teeth. Got the Betty's at 8. I was ready to jet until Mom said, Betty's not ready yet. I sat there for at least an hour. It was 10 after 9 before she got in the shower. 9:35, she comes downstairs and said, I need a little longer to finish my hair. At 10 o'clock, we had been missed the show. She comes downstairs and says, let's go. Go where? Go to sleep, I'm gone. I was steaming like a demon as I drove home, but it just goes to show. Not trying to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhyme. Just remember my rhyme. Take heed to my rhyme to get the hell away. Man, first your parents just don't understand. I know, word, man. Then you had this crazy nightmare. Oh, why me? Why me? What's next? I don't know, it's not these girls, man. Well, you know how it is, though. Can't live with them, can't live without them. Eccoci qui, siamo tornati. Adesso, mister, dobbiamo parlare della nota dolente di queste ultime giornate. Passiamo al prima, alla prima categoria, al girone. Faccio prima una piccola presentazione, faccio, diciamo, parlo della classifica e dei risultati delle ultime partite e dopo passiamo a commentare il tutto. Allora, la prima partita della giornata è stata proprio il derby di Atri tra Calcio Atri e Atria, finita per 3-1. Poi il pareggio tra Villabozza, Castella e Castellammare per 1-1, questo scontro salvezza. Il Silvi ha stravinto la partita con il Cerratina per 1-6, 2-0 del Vis Monsilvano che continua la sua marcia verso i playoff, che se la giocherà fino alla fine, secondo il mio avviso, con il Calcio Atri, anche perché è una squadra molto, molto ostica, molto compatta. Casoli San Donato 3-2, queste sono le gare di domenica. Elicese Verlengia 2-1, Real Villa Carmine Pennese 1-1 e la capolista Borgo che vince 2-1 ai danni del San Giovanni Teatino. Andiamo a leggere la classifica: Borgo 52, Elicese e Silvia 47, l'Elicese però con una partita in meno da recuperare mercoledì contro l'Atria, che ha quota 45, 41 per il Vis Monsilvano, 40 per Calcio Atri, 36 per il Verlengia, 32 per il Real Villa Carmine, 31 per il San Donato che ha fatto un calo esponenziale in questo girone di ritorno, nonostante una rosa molto, molto forte. Il Casoli a quota 30, che sta risalendo piano piano, il 27 San Giovanni di Teatino, 20 Villabozza e Castellammare in zona playout, 19 per la Pennese, 13 Visceratina e chiude il fanalino di coda Torrevecchia 7 punti. Allora, mister, io partirei subito con questo derby. È finita nel peggiore dei modi per voi, il primo derby che perdi in panchina dell'Atria, sono stati 4, se non sbaglio, 5 i precedenti con questo? 6 con questo. 6 con questo i precedenti, erano 4 vittorie e un pareggio. Arrivata la prima sconfitta per 3-1, la partita si è messa subito male con l'autogol di Castagna, poi il gol di Ragnoli, il gol di Forcella dopo una splendida punizione di Rachini che ha riacceso un po' la speranza, ma il 40esimo Cantoro, di cui abbiamo parlato prima, appunto era uno dei pezzi forti del Mutignano, comprato dal Calcio Atri nel mercato di dicembre, ha chiuso la pratica. Sì. Sì, il derby è sempre una partita dove una partita a sé, dove chi gestisce meglio le emozioni è più facilitato a vincerla quella partita, e questa volta l'ha gestita molto bene il Calcio Atri. Forse Calcio Atri aveva, anzi levo il forse, aveva molto più voglia di noi di vincerla quella partita, per quello che si è visto in campo. Forse noi, perché oltre al fatto che Calcio Atri servivano 3 punti per la loro classifica, oltre al fatto che c'è una normale rivalità cittadina, e quindi quella partita è sentita, molto sentita. Dall'altro però noi forse non siamo scesi in campo pronti per una battaglia sportiva, loro erano più pronti, più determinati, e hanno fatto loro meritatamente questo derby. È stata forse, Nico, la determinazione del calcio Atri la chiave di questo successo? Cosa ne pensi tu? Sì, sì, quello è quello che parlavamo prima. Sicuramente hanno avuto più voglia di noi di vincere questo derby. È vero che siamo partiti molto male, magari quello ha fatto un po' la differenza o no, non si sa, però secondo me un po' ci ha condenato questa partenza male, ma la clave di tutto è stato quello. Secondo me loro hanno messo qualcosa in più, un po' di cuore in più forse, e lì è stata la differenza. Mister, diciamo che per Calcio Atri, come hai detto tu, era l'ultima spiaggia, possiamo dirla così, per il treno playoff, dentro fuori. Magari una sconfitta li poteva condannare, non solo a loro, ma anche per il Vismonsilvano, perché 3 punti in più per una squadra che con quei 3 punti magari era in seconda posizione, poteva precludere il cammino playoff per la quinta classificata, visto il divario di 10 punti. Quindi, secondo le mister, anche questo ha condizionato, nonostante comunque la voglia di vincere un derby cittadino, ma anche la consapevolezza che era una partita da dentro fuori. Sono sicuro che il primo pensiero che ha avuto il nostro avversario, anche se lo devo interpretare, non è la mia squadra, credo che sia quello della loro classifica. Venivano da 2 sconfitte, quindi erano giustamente arrabbiati, avevano necessità di 3 punti, giocavano in casa, era l'occasione giusta il derby per rilanciarsi, anche perché il derby poi dà una carica se lo vinci, lo ha dato a noi negli anni precedenti, e se saranno bravi loro a gestirla, questa euforia che è normale che ci sia dopo una vittoria, ne raccoglieranno anche loro i frutti, credo, anzi io lo spero, se devo dire la verità, perché loro devono ancora incontrare squadre che al momento stanno in lotta con noi, anche se sta arrivando anche Calcio Atri in quel gruppone. È chiaro che Calcio Atri, come dicevamo, ha meritato e deve lottare per i playoff, sta facendo il suo campionato. A mio avviso potrebbe stare anche in mezzo al nostro gruppone, perché nel mercato di dicembre si è rinforzato molto, come dicevamo prima, ha preso comunque molti giocatori che l'anno scorso giocavano in promozione, quindi è una delle altre squadre molto buone di questa categoria. Vorrei ricordare qualche precedente dei derby, non sono mai stati spettacolari, forse l'unica eccezione il derby sempre al Piccirilli dell'anno scorso, forse il campo che dà un po' di spettacolarità in più a questo derby. Mazzola Regionale, sei stato tu, Nico? Mi ricordi doppietta o tripletta forse? Doppietta, sì, risultato di 4-1, e lì sei stato veramente l'arma in più di questa squadra e hai portato appunto l'Atri alla vittoria del derby. Cosa ti ricordi di quella giornata? Ti è rimasta impressa soprattutto? È un bel ricordo, perché comunque, non essendo cittadino di Atri, ho sentito la partita come la sentivano loro, come la sentiva il mister, quello che mi hanno trasmesso i miei compagni, perché alla fine è così, quando uno è fuori vede il compagno del posto e riesce a capire l'importanza della partita, l'importanza che è la rivalità sportivamente parlando, no? Quindi io mi ricordo che non venivamo di tante vittorie consecutive in quel periodo, era appena iniziato il campionato, era ottobre, era il mio compleanno, quindi la ricordo benissimo quella partita, e quindi a noi era come diceva il mister prima, venivamo delle sconfitte, dovevamo vincere per forza, abbiamo creduto, sapevamo che dopo il derby poteva essere quel cambio di testa, di mentalità, di fiducia, vincendo il derby in casa, e così è stato, è meglio di così impossibile, facendo una doppietta, sono stato molto, molto contento, ma ormai quello è passato, adesso bisogna... Purtroppo, aggiungiamo. Sì, il calcio è così. Allora, mister, magari una vittoria del derby può galvanizzare un po' l'ambiente, purtroppo una sconfitta può tirare ancora più giù, soprattutto se arriva in un momento nero come quello vostro. Sono arrivati 3 sconfitte su 4 partite nelle ultime, se non sbaglio, ad eccezione della vittoria con il Cerratina, quindi mister, bisogna ripartire, bisogna alzare subito la china, mercoledì c'è le Licese, è una partita dove non si può sbagliare. No, no, non si può sbagliare. La fortuna che viene subito dopo il derby, che comunque lascia un po' di rammarico, perché c'è una, perché siamo di Atri, cioè, si sente di più, ha una risonanza maggiore la sconfitta. La fortuna nostra è che abbiamo già mercoledì, cioè tra 48 ore, la possibilità di riscattarci, tra l'altro con un altro, un vero big match, questo qui, che diventa per noi una partita di vitale importanza per la classifica. Oggi ci hanno, con i risultati di ieri, ci hanno scalzato, ci hanno messo in quarto, al quarto posto, dove forse quest'anno non ci siamo mai stati. Quindi abbiamo l'occasione per provare a vincerla, visto che giochiamo in casa, e per ritornare al secondo posto, perché oggi vediamo normalmente tutto nero, però se riusciamo in questi 90 minuti a cambiare un po' l'inerzia di quello, di questo campionato, di come sta andando questo campionato nel girone di ritorno, noi ci ritroviamo a 4 punti, secondi in classifica, e con uno scontro diretto in casa dopo la sosta contro il Borgo Santa Maria. Quindi comunque sì, abbiamo ancora le possibilità per dire la nostra. Non è affatto semplice rispetto a prima, però la possiamo ancora dire, bisogna solamente crederci e anche trovare esempio da come gli avversari ci stanno affrontando, ecco. Se noi riusciamo a essere come loro, credo che sia come Calcio Atri, ma non solo, perché la nostra crisi viene da lontano, perché abbiamo perso in casa con San Giovanni Teatino, che senza nulla togliere è quint'ultimo in classifica. San Donato, come hai detto tu prima, è una squadra in crisi, penso che abbia vinto solo ad Atri. Sì, se non sbaglio sì. Partite abbiamo perso col Villa Carmine, sinceramente... sa che ha fatto solo con Atri la vittoria in questo momento, quindi è una crisi, bisogna riconoscerlo oggettivamente. Abbiamo possibilità di risollevarci, ci dobbiamo risollevare con le licese. Se la squadra è matura e riesce a risollevarsi, allora se la può giocare, perché vuol dire che ha le armi per farlo, altrimenti dobbiamo essere abbastanza sinceri e rivedere un po' gli obiettivi. Visto però magari vedendolo da fuori, questa Atri è un po' una delusione per i risultati ottenuti. Però ovviamente la visione degli addetti ai lavori è sicuramente diversa, mister. Quindi vedere l'Atria in quarta posizione, anche se con una partita in meno, quindi si può ancora arrivare al secondo posto con questo recupero di mercoledì, non è abbastanza, perché l'Atria era la vera e propria corazzata di questo girone. Cosa non è andato in questa annata? Oppure cosa è andata, se ci vuole? No, Federico, io sono molto sincero. Atri viene sempre considerata corazzata perché è Atria, che ha un blasone, perché viene da esperienze di categorie superiori. In realtà Atri è una buonissima squadra, però non me la sento di dire che Silvi non sia una corazzata. Se ha Vaccaro e De Leonardis, Orsini, o Pavese, o Cammisa, è una corazzata. Elicese è una corazzata. Borgo Santa Maria ha giocatori, addirittura un giocatore che ha fatto 15 presenze in Serie D l'anno scorso. Quindi le altre si sono rinforzate. Noi vediamo molte volte solo il nostro orticello, ma le altre si rinforzano, e forse facendo un campionato sotto traccia alla fine raggiungono maggiori risultati. Però magari così il campionato è ancora più bello, ancora più acceso. Le squadre del nostro comprensorio del Cerrano sono tutte lì, che c'è il Calcio Atri in sesta posizione, il Silvi adesso in seconda posizione insieme alle licenze, Borgo Santa Maria prima. Ma secondo te, ci hai parlato di Silvi come vera e propria corazzata del campionato, ma chi è la favorita, anche considerando i 4 punti di vantaggio che ha il Borgo in questo momento? Oggi direbbe il Borgo che sia la favorita principale del campionato. In realtà io spero sempre che la mia squadra possa ritornare a lottare contro il Borgo, però ritorno a dire che Silvi, per quello che sta dimostrando, credo che stia alla 10ª vittoria consecutiva. Sì, sì, non cioè vince nel tutto il girone di ritorno, in tutto il girone di ritorno fino adesso. Alcune partite in maniera netta, altre... L'ultima sconfitta con il Borgo Santa Maria per 4-3, poi una partita roccambolesca. Una partita che vince a 2-0 il primo tempo. Sì. Quindi viene da 10 vittorie consecutive, alcune schiaccianti, altre un po' meno, anche fortunose, con calci di rigore, alcuni anche dubbi, ma ci stanno in queste categorie, ma il valore della squadra non si discute. Ad oggi chi ha la spinta maggiore sembra il Silvi, nonostante i 4 punti, perché credo che poi debba giocare il Borgo a Silvi. Sì, sì, Silvi ha tutti i scontri in casa. In casa, con noi deve giocare. Io anche con le ricese in casa. La mia speranza, anche per la bellezza del campionato, è che tra le 48 ore noi possiamo vincerla, questa sfida, che sarà difficilissima, e si apre un campionato bellissimo tra Borgo, Atri, Elice e Silvi per vincere una volata finale. Con molti scontri diretti, anche per rendere il campionato molto più interessante e bello, ecco, sarebbe importante una nostra vittoria. Lo speriamo tutti, mister. Però prima parlavamo di prestazione fisica un po' deludente dell'Atria, forse è stata questa la cosa che ha aggravato la situazione dell'Atri, che era saldamente in primo posto nel giro d'andata, erano 3 i punti di vantaggio del Borgo Santa Maria. Quindi è stata forse questa l'unica pecca nel giro di ritorno? Beh, ovviamente per quello che si vede c'è un piccolo calo fisico, però i cali fisici dipendono anche spesso dalla testa. Noi siamo abituati dal girone di ritorno dell'anno scorso a fare sempre risultato, a perdere pochissimo. L'anno scorso in girone di ritorno abbiamo perso solo a Pescara con la Fater, abbiamo riniziato questo girone d'andata dove abbiamo incappato in un errore solamente a Borgo Santa Maria, e quindi una sconfitta. Qualcosa è successo quando è iniziato il girone di ritorno con la sconfitta col San Donato in casa. Lì sembra che la squadra abbia perso un po' di certezze, non è ancora riuscita a risollevarsi, a capire il reale valore che poi questa squadra ha, e quindi quando la testa ha un po' paura e non c'ha certezza, anche la corsa scende. Sì, anche perché ricordiamo le 2 espulsioni con il San Donato, che sicuramente hanno caratterizzato quel match. È finita 1-0, le reti potevano essere sicuramente di più, l'Atri ha creato anche 9, sì. Soprattutto con Nico, che si è dato animo per fare, invece di essere una persona, esserne 3. Quindi per tornare in 11 contro 11 ha dato veramente tutto. La ricordo bene la partita, negli ultimi 20 minuti l'Atri ha dato tutto. Cosa che magari se fosse successo nei primi minuti la situazione era stata ben diversa. Quindi Nico, secondo te qual è stato il problema sia con la partita col San Donato sia in questo periodo dove non si riesce più a trovare la via sia del gol che della vittoria? Beh, è difficile dire qual è il problema, non è un solo problema. Condivido quello che diceva prima il mister, magari dopo la sconfitta con San Donato un po' abbiamo, non so come chiamarlo, abbiamo perso un po' magari di fiducia, quello che parlavamo anche un po' prima. Il fatto mentale fa tantissimo, la testa, e magari non so se dire che non avevamo fiducia, ma qualcosa dopo lì non abbiamo potuto sistemare, un po' per sfortuna, un po' perché non riuscivamo a creare o avere un gioco, diciamo, pulito. Ma la partita con San Donato, partendo da lì, è stata, diciamo, che ci ha fatto cambiare un po' la testa, perché anche come dicevi tu prima, no? Con 9 giocatori abbiamo creato tantissimo perché credevamo noi, no? E quindi come ti spieghi che con 11 persone all'inizio non riuscivamo a fare niente e dopo con 9 abbiamo messo il San Donato in una porta? Quindi sta tutto nella testa, nella voglia, perché nonostante siamo arrivati con 9 giocatori, noi abbiamo voglia di pareggiare quella partita. E dopo di là non abbiamo trovato la vittoria subito, magari, e la testa ha fatto tanto. Io ci credo che dopo di questa sconfitta, che abbiamo avuto tanti 3-4 di seguito, finalmente abbiamo capito la importanza che ha, no? Vincere, la fiducia che ti genera, no? Vincere, perché vittoria porta a un'altra vittoria, così di seguito, secondo me. Spero che finalmente abbiamo capito come dobbiamo affrontare le partite. Già da mercoledì abbiamo quasi una finale, sono tutte finali, che sembra, come diceva il mister prima, tutto sembra negativo, ma alla fine vincendo mercoledì siete ancora lì. Siamo nel secondo posto e ancora abbiamo la corsa. E penso che tutti crediamo a che possiamo arrivare in alto. Non so dove, ma sicuramente ci proveremo. Lo speriamo tutti. Mi serve aggiungere qualcosa. E poi abbiamo anche due partite in casa dopo consecutive, sì. Quindi prima della sosta. Quindi è un calendario anche abbastanza favorevole sulla carta. Poi non sempre sulla carta. Sempre la prima categoria nasconde sempre le insidie. Quindi. Sulla carta. Quindi c'è la possibilità di risollevarci. Lo dobbiamo volere, però. Penso che tutti gli sportivi adriani lo sperano. Mister, questa è una domanda che forse da più da triano, da amante dello sport, sì, vuole farti. Allora, l'Atria ha una storia gloriosa, ricordiamo tutti, magari io sono un po' più giovane quindi ricordo meno, però io sono nato con il mito dell'Atria che era in eccellenza, il mito dell'Atria che andava in Abruzzo e vinceva. È arrivato un passo dalla Serie D. Dopo c'è stato questo crollo che l'ha portata fino alla seconda categoria. Poi, per fortuna, c'è stato lei, ma ci sono state altre persone che hanno creduto in questo progetto, che hanno dato l'anima per questo progetto per riportare l'Atria in alto. Ma secondo te, mister, un disperdio di forze come quella della divisione, quindi del calcio Atri e l'Atria Calcio, ha condizionato questo tonfo, possiamo chiamarlo così, di Atri? Perché in realtà è questo. La Atri, nel senso l'Atri sportiva, l'Atria Calcio. L'Atria Calcio, dove siamo noi, ha avuto un momento di flessione nel corso, prima che arrivassi io addirittura sono arrivate due retrocessioni, sì, consecutive, dalla promozione in prima, da prima addirittura alla seconda, dove non mi ricordo Atri mai essere stata, almeno da quando sono piccolo. Lì non c'entra niente nella divisione di forze, perché in quel momento, vabbè, c'era la BDR di Atri, ad Atri, diciamo, città che, capoluogo, sì. Quindi Atri faceva altri campionati, faceva la promozione. Quando Atri ha avuto, ha già vissuto queste situazioni di flessione, anche quando ero giovane io, dall'eccellenza è scesa in prima categoria, però poi un gruppo di giocatori di Atri o altro è riuscito a riportarli in promozione, piano piano sono riusciti a portarli in eccellenza e, come dicevi tu, hanno quasi sfiorato la Serie D. Esistono questi momenti di flessione, l'ha vissuto il Morro d'Oro, l'ha vissuto la Sant'Egidiese, con cui io giocavo contro, con la BDR Sant'Egidiese, mi ricordo, 4 anni fa. Parliamo. Una squadra che faceva la Serie D fino parliamo a qualche anno prima. Di 5 anni fa parliamo, che io giocavo con la BDR e giocavo contro la Sant'Egidiese. E quindi no, dopo sì, e quello hai ragione, adesso soprattutto paghiamo questa divisione. Sì, anche perché entrambe le squadre hanno molti giocatori atriani, quindi... Se mi dai l'occasione, almeno il mio pensiero, non parlo neanche più da allenatore dell'Atria Calcio in questo fatto, ma da sportivo atriano, perché poi io ho dato, diciamo, la vita sportiva ad Atri la maggior parte negli ultimi anni. Posso dire che sono stato alla BDR, all'Atri, sono stato alla Cona, sono stato a Casoli. Tanti bei ricordi e non pochi poi. Quindi ho dato la mia vita sportiva al calcio dilettantistico atriano, adesso all'Atria Calcio di nuovo, da dove sono arrivato. Sì, non possiamo negarcelo, cioè, la verità è quello che io ti dicevo prima, stiamo lottando, ecco, la vittoria del derby questa volta è andata a pannaggio di Calcio Atri e fa sorridere Calcio Atri, 4 volte abbiamo sorriso noi, in realtà c'è poco da sorridere, poi fondamentalmente per Atri, perché l'obiettivo dovrebbe essere costruire qualcosa di più forte per andare in promozione, in eccellenza e andare pian piano. Ovviamente entrambe le società hanno questa aspirazione, però bisogna pure far fronte a che Atri è piccolina e non può avere, abbiamo detto, Tre Ciminiere, Atri, Calcio Atri, Fontanelle, Casoli. Ecco, levando Casoli, Fontanelle, Tre Ciminiere, che è molto più intelligente di noi e va a attingere giocatori da fuori, perché altrimenti non sarebbe mai andata in promozione, si vede oggettivamente che noi Calcio Atri rincorriamo lo stesso obiettivo. Ma è giusto, abbiamo lo stesso bacino di utenza, quindi che dobbiamo fare? Normalmente andiamo lì. Ecco, la domanda che mi pongo, ma se questi ragazzi invece giocassero insieme, forse Atri città sarebbe in promozione oggi? Io credo di sì. Invece noi ci stiamo un po'... facendo guerra, godere da queste rivalità che ci stanno, sane, cittadine, però si dovrebbe lavorare di programmazione, forse lasciare stare pure eventuali rivalità, eventuali scaramucce che ci possono stare nel calcio. È sempre stata una rivalità molto contenuta, non è mai stato qualcosa di... c'è anche lo sfotto sportivo ed è bello questo. È forse la base proprio dello sport questo, è ciò che lo rende bello. Però non ti nascondo, non ti parlo allenatore, che vedere giovani di altri da una parte incontrarsi come sabato dall'altra, festeggiare l'uno, festeggiare l'altro, o il contrario quando è successo, alla fine però porta ben poco se non raggiungiamo la promozione, perché i settori giovanili vanno coltivati con prime squadre che però militano in campionati maggiori. Noi oggi abbiamo come Atria Calcio ricostituito la Juniores e abbiamo un dovere di dover arrivare in promozione comunque in poco tempo, perché i ragazzi devono avere uno sbocco che non è la prima categoria, se no altrimenti li perdiamo tutti. Sicuramente. E dobbiamo pensare a questo. Ecco, mi piacerebbe, perché io poi sono allenatore a tempo, non è che sono incatenato alla maglia dell'Atria, nel senso gli allenatori passano, la società resta. Io sono molto orgoglioso di dove sono, della maglia, è una maglia che ci accomuna tutti. È gloriosa, soprattutto. È una maglia per che noi adriani, soprattutto... Faccio un piccolo, vedevo su Facebook l'allenatore mio avversario di sabato, che Umberto Italiani, ha messo una foto dove lui era raffigurato con una maglia rosso-verde dell'Atri e dietro c'era Eusebio Pavone, quel campo è Eusebio Pavone. Cioè voglio far capire, ci accomuna tutti quella maglia, nasciamo tutti da là, è ovvio che ci sono, si possono avere altre realtà societarie, perché non farla rivivere? Ecco, in una maniera più forte, Atri ha bisogno di farla rivivere, ma unendo, secondo me, sia tutte le risorse umane che ha e tutte le risorse anche economiche, senza nasconderci, perché altrimenti ci dividiamo e forse festeggia Borgo Santa Maria. L'anno scorso siamo stati più fortunati che ha festeggiato Tre Cimini, il prossimo anno festeggerà Elice, perché loro non si dividono. E noi andiamo con l'handicap, sia noi che Calcioatri. Noi stiamo facendo un pochettino meglio. L'anno scorso abbiamo fatto un pochettino meglio. Calcioatri cerca di rincorrerci, dopodiché se ci supera la rincorriamo noi. Ma in realtà vincono gli altri. Però scusate, questa è quello, problema, sì. Però è vero. Purtroppo questa è la realtà, mister. Questa è la realtà, quindi sia per noi che per loro. Esatto, Federico. Io proprio per questo ho voluto porti questa domanda, perché appunto, da sportivo adriano, io ti ho risposto onestamente, molto onestamente, meglio di così, mister. Allora, prima il mister ha parlato di settore giovanile, tu vieni dal Colon, giusto? In Argentina, Santa Fe, sì. Quella è una squadra professionista, se non sbaglio, squadra in Argentina, ci puoi dire la differenza tra il calcio argentino e quello italiano, anche se tu magari hai calcato cambiati molto più importanti in Argentina rispetto a quelli italiani, ovviamente. Però qualcosa magari in Italia hai potuto vedere. Sì, vabbè, non ho avuto la fortuna di stare in una squadra di Serie A, una primavera, un settore giovanile di Serie A in Italia, però per quello che ho vissuto in Argentina, ovviamente la differenza è tantissima, come cresci anche a livello psicologico, diciamo. Il calcio lo vedo un po' più, magari, ovviamente facendo sempre la differenza tra le categorie, molto più fisico, più, se gioca molto più col cuore, sicuramente è quella la cosa più, come dire, la differenza, sì. Poi che te posso dire, una bellissima esperienza che ti fa crescere tanto. Io mi ricordo quando già avevo 12-13 anni, andavamo a giocare con le squadre, no, di Serie A, tipo viaggiare in trasferta 500-600 km, fare i ritiri tutti insieme la squadra, fare gruppo, andare a vedere lo stadio Serie A della squadra con chi giochi, tipo Boca, River, Independiente, Racing, tutte squadre grandi dell'Argentina, ti fa crescere tanto e ti fa avere ambizioni, capito? Bellissime. Tu arrivi là e dici, magari il giorno di domani ci sto io lì dentro, no? È una cosa bellissima, una bella esperienza. Sono stato fortunato a essere cresciuto in un settore giovanile di serie A, diciamo, in Argentina. Niente, la differenza poi arrivare in Italia a fare campionati regionali ovviamente secondo me è tantissima. E il gioco, che ne so, te posso dire, le squadre sono magari che all'inizio le più lunghe, trovi giocatori di esperienze, magari il ritmo è un po' più basso, però si giocano. La difficoltà più, è sempre molto alta. Sì, è sempre difficoltà. È un altro tipo di gioco. Ti devi adattare il prima possibile. Capire che è un altro gioco. Sicuramente il ritmo più basso, però la importanza del campionato e l'intensità è sempre buona. Hai trovato dall'Argentina, è arrivato un nuovo giocatore per l'Atria mercato di dicembre. Ramiro Valerio è un tuo concittadino, non so in quale posto lui è nato in Argentina, non sono un conoscitore della geografia così ampiamente, però sicuramente entrambi argentini avete un legame dentro. Come sei trovato sia dal punto di vista del gioco, quindi in campo, sia dal punto di vista caratteriale con lui in Atri? Sì, sicuramente lui le prime esperienze in Italia di campionati, perché poi si è allenato con altre squadre ma non ha fatto mai una gara, e sembra di no, ma c'è tanta differenza tra un allenamento e una gara sportiva domenica. E quindi lui è un bravo giocatore, ha fatto pure lui un settore giovanile in Argentina importante quando era piccolo, quindi le basi diciamo ce l'ha tutto per fare bene. È quello che parlavamo un po' prima, deve capire come si gioca qua, la differenza del campionato che sta affrontando in questo momento, la prima categoria, capire subito come si gioca, che è un altro gioco, essere bravo ad adattarsi lo prima possibile, e penso che può esplodere, ci può dare pure una grossa mano per quanto riguarda il campionato. Tu invece ti sei adattato subito, diciamo che sei un cittadino onorario di Atri, oramai ti considerano tutti quanti, anche il mister prima diceva un cittadino atriano, ma facciamo una domanda un po' più stretta, in dialetto hai imparato qualcosa? In dialetto sì, capisco tutto, ma a parlare no. Qualche termine, qualche euforismo. Non riesce. Prova. Non me lo ricordo tanto, come... Non lo so, non mi viene in mente nessuna, però sì, le capisco le parole in dialetto. Pallone, come lo chiamiamo? Lu pallone. Cose così, ma no. A me, sinceramente, non mi esce il dialetto, però lo capisco tutto quando ne parlano, soprattutto i compagni di squadra, ce ne sono tanti che parlano dialetto. Ad Atri oramai si capisce. Siamo tra di noi, ci parliamo così, quindi il dialetto per me è una lingua ufficiale, sembra apprezzabile, ufficiale, quindi mai tirarla via. Allora, visto che siamo in chiusura, adesso vorrei fare un piccolo cenno sulla seconda categoria, girone D, dove c'è lo Scerne che sta dominando il campionato. Vado con la lettura dei risultati: Arsita Cortino 0-2, Casemolino Corropoli 3-1, Castagneto Campli 5-0, Castrum Silvi Real Castellalto 3-3, Paterno Tofo Cappelle sul Tavo 2-1, Scerne Real Bellante 1-0, United Piane Bisenti 1-2. Facciamo subito velocemente la classifica: Scerne 48, Castagneto e Cortino 41, Paterno Tofo 40, Castellalto 34, Arsita Casemolino 33, Corropoli 32, Campli 31, Castrum 25, 21 per il Bellante, 20 per il Bisenti, 17 per United Piane, Rocca Santa Maria 14 e chiude Cappelle sul Tavo con 7 punti. Mister, un piccolo accenno sulla Scerne, ha molti atriani. C'è il mister Pepe, c'è Michele Ameli, non so se... No, Michele è andato via. Michele è andato via, Michele, ok. Andato via, comunque con Pepe hai comunque abbastanza... una bella esperienza con lui. Cioè, hai avuto per qualche tempo come allenatore? No, oppure... è stato da giovanissimo io e giovanissimo lui come allenatore, è stato il mio allenatore in promozione alla Tricalcio. nonché è stato mio allenatore della Juniores, dove abbiamo raggiunto prima della promozione tanti tanti risultati e tante belle soddisfazioni. Poi l'ho riavuto, l'ho riotrovato nella United BDR, che è la squadra da cui nasce oggi Calcio Atri. L'anno scorso, da quando sono diventato allenatore, ce l'ho avuto come rivale nei due anni precedenti, soprattutto nei derby, appunto, perché lui era il Calcio Atri, sì, quindi... sì, nei derby mi portava più fortuna Marco, vuol dire. No, scherzo, no, Marco è molto bravo, si è, diciamo, poi raggiunge sempre risultati almeno in seconda praticamente super vincente, è un espertissimo, no, dico veramente negli ultimi anni ha portato tante squadre in prima categoria, oltre a noi dalla terza in seconda con la BDR, ha portato tante squadre, ricordo la Castrum, ricordo la stessa United BDR, ricordo adesso facendo gli scongiuri, comunque sta portando lo Scherne in alto, molto probabilmente in, alto. In prima categoria, visti 7 punti che è la differenza della seconda classifica. Allora noi siamo in chiusura, ringrazio Giampiero Reitano, mister dell'Atria Calcio. Ringrazio il fantasista dell'Atria Calcio, mister, quest'anno lo possiamo ancora considerare così, visto soltanto 11 gol realizzati? Soltanto, dai, sono semplice a segnare. È abituato a qualcosa in più. Vabbè, se li sta risparmiando tutti per adesso. Ringrazio anche Nico Novello. Grazie a voi per l'invito. Ringrazio la regia di Carlo Micheli, e ringrazio voi che ci avete seguito. L'appuntamento a settimana prossima, lunedì, sempre alle ore 16:30. Buona serata. Radio Cerrano ha presentato Sportivamente Parlando, un programma ideato e condotto in studio da Federico Di Fabio.